parte del computer. E beh, se tu rispondi bene, già sono positivi. E a quanto pare stai studiando, quindi. Già lo so. Ma vediamo un po' se la va. Va bene, sta lì. Se ci tieni, fallo, non c'è problema. Ci tengo perché è anche una soddisfazione. Alla mia età non sono tutti che fanno una cosa del genere. Chi da c'è manco decrepito? Io sono del 57, non sono neanche piccolo, no? Andava bene quando l'ho fatta a suo tempo. Vabbè, non si è manco visto. Adesso, prima l'età nostra erano già vecchi. Oh, vabbè che ancora qualcuno c'è, perché io trovo dei miei amici, dei miei compagni delle medie e cose, sembrano vecchi, cazzo, non li riconosci, capelli bianchi senza denti, tutti buci male, Io se non fosse per la gamba, che adesso mi opererò sicuramente, poi dovrei rimediare, però per il resto sono abbastanza giovanile. Ehi, già lo so. Però prima si invecchiava presto, non so se te l'hai già visto, Prima sì, adesso no, che vuoi che ti dica. Già ho visto gente che è messa male confronto a noi. Anzi, io mi sono ripreso alla grande, diciamo così, da. A parte la gamba, vabbè, tutto il resto va bene. E infatti, è la gamba che chi non anda. Ho venuto arrivare stamattina una fatica per portare queste mensole qua. Sono dovuto andare in via Sorso a piedi a prendermi la macchina e poi andare a pigliare queste due mensole che me le ha regalate un amico. Però bisogna buscare tre staffe per metterla, una sola me devo mettere, da. E così sono a posto. Invece dalle staffe ho molti altri di vedere, ti sai di mettere i piedini? No, capiedini, aspetta, sono in asciuso. E allora non fa, allora c'è ragione, eh. E come sono queste mensole, bianche? No, color legno sono, belle. Già, ma non esistono quelle che le ho comprate io? Quelle che hanno il tassello che metti nel muro e poi infili la messa dentro, col tassello è scomparsa, ci sono quelli lì anche. Papà, non c'è una tenda se volo lì forse sotto, Ciao Pla. Siccome è pesante queste mensole che ho io, ci vuole delle staffe belle amprose come quelle che ho in cucina, perché io le ho fatte le mensole in cucina, però gli avevo messo anche le staffe come si deve, che hanno il rinforzo per non piegarsi. Altro, non si piegano quelle, no, te l'ho detto, ce l'ho io in cucina, ce li ho per appoggiare i cuori, sale, pepe, tutte, ci sono, no? E sono delle mensole col foro nella mensola, capito? Tu metti il tassello, ed è lungo il tassello, non è più, metti il tassello nel muro, lo avviti a chiave, il tassello è lungo, anche 10-20 cm, e poi va a infilarsi dentro i fori della mensola, si chiamano tasselli a scomparsa, non quelle mensole che vengono a L, che vedi le viti, che vedi il coso, capito, la staffami. Queste sono delle tasselli a scomparsa che vanno dentro la mensola. Allora, tu bisa, una indichi mensole che va giù io, a parte che sarà più di 70 centimetri, solo la mensola, come le tue sono strette, come queste che ho io qua. La mia è lunga un metro, non è stretta, ok, lunga, stretta sì perché non ha nessun significato metterla larga, è giusto per appoggiare il sale e tutti i cosi che servono in cucina, no? Capito, l'angolo della cucina. Però ti sto dicendo che tu quella mensola non la puoi usare con questi tasselli, non puoi comprare i tasselli così, devi comprare Giacomo i fuorifatti, per da sera scomparsa, mi se c'era Giulio te lo spiegava lui come sono fatto. Ma non vanno bene quelli lì, che questo è grande, è 1,30 x 75 mi pare, una cosa del genere. Cosa? Se non anda di me, si può usare un bevalo, invece che metterci la radio. Infatti. Vedo che metta le staffe, perché poi ci dovrà mettere le radio più grosse. Cazzo, se voi fate parlare ci avete tutti e due il dito veloce. Ho detto che quella è Natalino. È una scrivania appesa al muro, non è una mensola. Cazzo, 1,70 m. Infatti, cosa ti voglio dire io? Chi sono manni, vivono i ciaffi fai fuzza. E chi di chi faccio in cucina vivono i noghisti, chi si sono giocattoli. Si si rabbigendi, chi c'ha? Perché pesa un bemmi. Cata... Bisogna vederle le cose. Sì, vabbè, dai. Comunque se metti quella staffa lì, vabbè. Per quella mensola, se quella mensola è troppo larga, allora vabbè. Vabbè. C'è un carro fuori, sono uscito. Mamma mia, che carro, sta così bene dentro casa, eh. E infatti è preso i soggiogni. Stamattina ogni sudata mi ha giocato a regare il cemento dai nomi. Cazzo. Qui era un caso, vederà presto stamattina. Ma dimmi tu. Per poco non mi sentivate più in radio, eh. Perché? Stavi sentendo male? Ieri notte eravamo addormentati, con le finestre tutte aperte, e purtroppo ha preso fuoco la macchina sotto casa e tutto il fumo è entrato dentro casa. Quando mi sono alzato c'era la casa invasa di fumo, cazzo, non riuscivamo più a respirare, si stava crepando. Cazzo, non te ne sei accorto, cazzo, ero già non leggero. Ma ha preso fuoco o l'hanno messo a fuoco? Cosa, cazzo, un bel alto, basta. Ho detto, ha preso fuoco questa macchina o l'hanno messa a fuoco? No, ha preso fuoco camminando, ci avevano anche il bambino dentro il seggiolino, capito? Ha preso fuoco camminando, ha detto che ha fatto la rotazione dove si è ditta lì, e ha rallentato, ha dato per rallentare e non frenava la macchina, sentiva l'odore di gasolio. E ha detto adesso mi fermo, se ce la faccio a fermarmi, ha scalato di marcia, poi la macchina ha cominciato ad andare a colpi, a pigliare un rugo, io ho sentito solo, chiamate il pompino, ho preso subito, e mi sono alzato, ho visto tutta la sala, tutta in vasa di fumo, le camerette, la camera da letto, meno male che la cucina dove c'era Tyson e i pappagalli l'ha chiusa. Quindi a loro li ho lasciati lì, noi io e Elena ce ne siamo usciti fuori, non si poteva stare. Me lo immagino, bisogna stare attenti quando a queste cose, è un casino, nel fumo, minchia, ci rimani secco. Claudio, ha seccato tutte le piante, il caldo, il calore, e ha sciolto anche la targhetta dove metti i nomi, quella che c'è della cosa dell'agenzia funebre, le ha sciolto. Tutte le piante le ha seccate, quella delle fioriere che c'erano giù, della pizzeria, dell'agenzia funebre, tutte seccate. Ma era già parcheggiata la macchina? È riuscita a parcheggiarsi? No, in mezzo a strada, proprio al centro della strada. E quando è successo questo? Ieri notte? Ieri notte, a mezzanotte. Sì, dobbiamo stare attenti anche con la macchina adesso. Soprattutto quella benzina, bisogna stare attenti perché c'è troppo caldo, cazzo, mamma mia. No, era gasolio, infatti quello che un po' mi ha meravigliato è che abbia preso fuoco subito così. Io ho chiamato subito i vigili del fuoco, però ce l'hanno tardato un po', quando sono arrivati era già tutta incendiata la macchina, hanno fatto il tempo a togliergli un po' di roba che ci avevano dentro, e l'hanno messa sul marciapiede, e cazzo, la macchina continua da bigli a fugo, e la dovevano versare oggi, dovevano prendersi la macchina nuova. Vabbè, se gli hanno già dato l'incentivo alla rottamazione, passa lo stesso. Non lo so, poi sono stati sì dalle 2 di mattina quelli che puliscono le strade con pale, poi hanno usato l'aspirapolvere perché c'era un aspirapolvere. la polvere col gruppo elettrogeno, che funzionava col gruppo elettrogeno, c'era gasolio in terra, mischiata d'acqua, si scivolava di brutto. Era tutto pulito con quella lì, poi l'hanno buttato con la sabbietta bianca. E insomma, sono stati fino alle 2, 2:30 di notte, sempre se sta facendo casino, ho dormito un cacchio stanno. E infatti le amato già hanno lappato quel furgone giallo, con lampeggiato, quello lì, conosco, sono abitanti. Quindi vengono, ci hanno lappato, ci hanno incidenti, tutto, c'è una pulivapro dentro, tutti i prodotti, l'aspiratore, tutto, portano via tutto, puliscono tutto. Stamattina non si vedeva più nulla, l'hanno fatto tutta, ti immagino, dal mio portone fino alla fine di via Mores, tutto quanto l'hanno tutta pulita la strada, perché il gasolio ha fatto un rigagno sino alla fine, quindi hanno dovuto pulire tutto, aspirarlo, fare un casino. Sì, già riconosco. Fanno tutto quello, ci hanno i prodotti, ci hanno l'aspiratore, tutto, qui va, ora, capito, tutto dentro il furgone. Quando sono incidenti, trovano quello, il furgone giallo, si vede in giro, fatti gli amati, il servizio stradale, polizia stradale, eccetera, quelli li prendono, che devono entrare col VIP. Qua tu pensa che noi siamo scesi giù dal portone, col portone chiuso si sentiva il calore all'interno delle... ma calore forte, siamo dovuti sforzare perché ha cominciato a scoppiare, boom boom boom, cate, rivedi, salta balenato. Che macchina era? Un volume della Fiat, era, adesso non so, non ho capito bene se fosse... che macchina fosse, però era una monovolume di quelle grandi, capito? Ho capito, cose che succedono, lì non è che ha preso fuoco il gasolio, lì ha fatto cortocircuito o qualcosa, capito? Automaticamente prende fuoco perché ha parato i fili, prende fuoco la gomma, la cosa, e poi trova la pompa di gasolio e anche il gasolio prende fuoco, non scoppia come la mano la benzina. Meno pericoloso, però essendo lioso prende fuoco, capito? Però sicuramente qualche cortocircuito. È già risciuto domani il gasolio, io. Lui ha detto che praticamente non riusciva a frenare né col freno di servizio, né col freno normale, né col freno di servizio, quindi sicuramente quella macchina lì aveva i freni con i sensori e ha bruciato sotto i sensori, perché ha visto fumo che usciva, lui si è fermato scalando le marce, ha detto che riuscita a fermarsi, poi la macchina è andata a colpi, ha fatto bum bum bum e si è fermato. Sì, il circuito elettrico del sensore dei freni, ma era surriscaldato, ha preso fuoco, era lì partita la fiammella, capito, essendoci in gomma, essendoci tutti i rivestimenti in gomma, poi è arrivato la pompa di gasolio ed è chiaro che ha preso ancora più fuoco, perché il gasolio non incendia, se però gli arriva la fiamma sopra, alimenta, è olio, capito, olioso, mentre la benzina parte subito, il gasolio è così, capito, miai. Avanti Natalia, riprendi tu che io mi allontano un attimo, devo farmi due chiacchiere con mia figlia, un secondo. Ecco, c'era uno che voleva entrare poco fa, avanti. Ciu-cu-ciu. Mamma mia. Chi su buon pugno è? Arrivato, mamma mia! Ormai siete fregatemi, ci sono io qua. Ah! Antonello! Peloso, sì, Antonè. Allora, sì, io voglio essere peloso, io ci mancherebbe, c'è anche uno che mi vuole su un coso. Non ti dico ma gli altri lo immagini, cazzo. Ah, Antonello, tu sì che mi capisci. Comunque, Natali, se ci fosse stato un estintore all'inizio c'era una fiammellina da nulla, si poteva spegnere, io gli gridavo da sopra, aprite il cofano, cazzo, nuda. Purtroppo... Ma va, a fumi di cose elettriche mi rivreni, ci si la viene molto in culo l'elettricità. lì perché ha detto che non li frenava la macchina, poi come è andata a colpi si è bloccata in mezzo strada, e come si è bloccata a Villa Dovugo. Allora corto circuito c'è stato lì, e già lo spegni davanti il gasolio, Gesù Cristo mio. Perché io le oso, è un casino, il gasolio se piglia fuoco non lo spegni più. Ah, non hanno usato manco schiumogeno, non pensavo di essere schiumogeno, invece hanno usato l'acqua, l'ho aspetta con l'acqua. Sì, c'hanno pressione lì. Un bene hanno pressione. Sì, aspetta 5 minuti, no, se ne arrivavano prima con la macchina l'avrebbero salvata, ma invece hanno tardato un po', vabbè, a scendere da dove sono loro ci vuole il tempo anche, se non è che è dall'altra parte della città. Sì, infatti. Infatti ne avrei fatto due o tre di caserma in una città come Sassari, due o tre succursali, capito? In modo che dove è più vicino la vanno. E i distaccamenti ci vorrebbero. Succursali, sali succur. Cosa hai detto? Ho detto succursali, sali succur. No, si chiamano distaccamenti quelle caserme che sta dicendo già. E ce ne vorrebbero altre due o tre per coprire tutta la città. Già lo so, infatti. Ah, ho capito cosa c'è. Di dietro cosa c'è, quello di qua. È bollente il trasformatore. Trasformatore da cambiare. Sai che quando non è piena piena, capotta, si sente il tetto. Io ho visto un film. No, quelli dei pompieri sono fatti apposta, hanno gli stabilizzatori. Io già l'ho portata già la macchina con l'acqua, cazzo è proprio fea. Ehi, deve essere piena, se no, ma come ballano quando si manda la mamma si allascia. E a me lo dici, già lo so già, l'ho portata la macchina con l'acqua, quindi l'usogo. Quelle dei pompieri sono fatte apposta, c'hanno le cisterne separate. Lo so, vabbè, comunque ha capitato un appesso perché stavano facendo un'esercitazione. Praticamente hanno messo fuoco a questo stabile e sono arrivati i pompieri, dovevano fare la curva per andare lì. Come ho fatto la curva si è girata la macchina, ha capottato, un camion, non una macchina, il camion ha capottato e sono dovuto intervenire gli altri vigili del fuoco per tenere fuori i colleghi. E gura gru, sono dovuto intervenire, già l'altro domani una macchina del genere. Già. Sì, io sono la gru loro. Sì, già lo so. A chi ricambia non la sa niente, quando si sente qualche cosa che cadono in burrone, roba del genere, salgo loro. Vabbè, però niente, se avessi avuto le sintole, ti ripeto, con la macchina l'avrebbero salvato. Perché dovrebbero mettere gli obbligatori e sempre controllati, come nelle barche. Io ce l'ho in macchina le sintole, però un po' forse è scaduto, non lo so. E basta controllarlo, se è caduto lo vai carregato ora, assai lui. Ma non ho di quelli grandi, Natali, c'ho quelli da rilli, capito? Quelli che usano i rilli, eccetera. Sì, le macchine da rilli ce l'hanno grande, ce l'hanno, piccolo non lo possono avere, se no non glielo omologano. C'hanno l'impianto proprio antincendio. Vabbè, il mio si chiama rilli, c'è scritto rilli sulle macchine disegnate, vabbè, comunque quello lì. Poi me ne avevano regalato un altro, che non so manco come si usa Natali. Che praticamente non è un estintore ma funge da estintore, capito? E ti spegne gli incendi. Perché in macchina ci vuole, io non ne ho per esempio, vedi? Però bisognerebbe averlo, uno almeno da 2 kg così, tanto va, si dà. A me sulla Budimudi non mi è successo, stavo prendendo fuoco il furgone, proprio vicino a quelle case campane, sono salito per vedere se mi davano un po' d'acqua, una pompa, qualcosa, stavano pulendo le bottiglie dei pomodori, e non ci sta stando una pompa da mano. E cosa sta facendo? Mi sta accendendo il furgone, io sto guardando quella pompa registrata. E meno male c'era un camionista nel mentre stava passando, si è fermato e ha usato anche l'estintore, quindi siamo riusciti a spegnerlo. E infatti ci vuole un estintore un po' grandicello, almeno da 2 kg ci vuole, che abbia pressione per soffocarmi, per togliere l'ossigeno dalla fiamma. Ma dopo stanno sempre fumando, hanno bonificato di nuovo, sono ripassati, saranno di nuovo perché stanno fumando sempre la macchina, capito? L'hanno alzato sotto i tappeti e cose, perché sotto c'era il fuoco ancora. Non lo spegni così, no, il gasolio è maledetto. E poi c'era tutta la strada impregnata di gasolio, hanno dovuto aspirarlo con l'aspiratore. E via, Rubino. Il gasolio è maledetto, cazzo, si fa scivolare, si fa... Cazzo, il gasolio è olioso e alimenta di più l'incendio. Da lì a me, l'incidente stradale, dovevamo togliere il tipo dentro la macchina e praticamente era tutto gasolio attorno, cazzo, si rischigava da lì, non riuscivamo a lavorare e poi abbiamo visto che in macchina ci aveva un cartone, cazzo, ho preso, l'ho allargato, l'ho messo in terra e allora sì che siamo andati bene. E infatti, lo gasolio è maledetto, te ne so qualcosa io. Grazie. Non puoi fare nulla perché ti fa scivolare, ti fa... è come ti lampi lo zincerra. Avanti, Alice, adesso si è assentato, adesso si sta facendo una bionda. E cosa stiamo dicendo? Una volta mi è successo nel furgone, non sapevo cosa fare da lì. Mi hanno cambiato il filtro della nafta e... praticamente mi fermo per fare una consegna, a casa vedo gasolio fare gli affiuti, non so più cosa va. C'era un tombino lì, mi sono messo sopra il tombino e l'ho fatto sedere, cosa va zio? E poi ho chiamato il mio cognato e gli ho detto io non posso tornare perché se no imbratta tutta la città, è pericoloso questo coso qua. Mettici un secchio sotto, ma un secchio non basta, sa scendere da affiuti, cosa secchio. E a che avviso mio non l'hanno piazzato dove ero visto, cazzo, e piglia d'anchivi. No, era difettoso tutto il filtro, l'ho provato, era stretta a morte, era difettoso l'altra lì, passava il gasolio, e come mettevi in moto, andavi a mettere in moto lì a raggio, proprio a fiuti. E infatti, era il filtro, era, che non abitava giusto. O non era l'usuglio, magari dannato un filtro sbagliato e perdeva il gasolio. No, dove lo portavo la carta, quello di Forza Peso che fa mesi industriali, camion, eccetera, eccetera, era abbastanza... poi faceva l'Iveco, capito? Quindi si aveva quelli originali. Era molto difettoso, non si sa che cosa avesse, però l'hanno provato a stringere a moto, provavo a mettere in moto e si è affiuti. E tanto portando da meccanico praticamente qualche cosa l'ha lasciata, capito, di sgocciolamento. Se abbiamo messo una cosa sotto, però un po' perdeva. E sono arrivati i vigili a vedere chi aveva lasciato le tracce, capito, subito. Io ero un grido. E io, vabbè, comunque già la zona era quasi alla fine. E a portare lo dovevamo, come lo portavamo? Io ero un grido, noi ci prendi il gasolio, cazzo, noi che la buibuno in moto e ne nudano, a chi sennò più anda più pesi. E infatti avevamo messo, ne avevamo dato la passata di quel nastro, quello che si mette nelle marmitte, se l'è presente, quello che è un adesivo. Quello lì è un po', qualche goccia scendeva, ma non tanto, appena appena. E infatti, gli hanno cambiato il filtro e cazzo non perdeva più dopo. E infatti, ma il gasolio ne ha perso un bel po', E meno male che, come andava a mettere in moto, usciva spruzzo proprio. A chi la bomba pompa sempre, come tu metti giù a tendere un quadro, comincia a pompare la bomba. Anche se tu non lo mettevi in moto, cazzo, bastava che giravi il quadro e perdeva, di brutto. Perché la pompa entra subito in funzione e pompa il gasolio, no? Eh beh. certo che così. E vabbè, andando a Murugista abbiamo detto che c'era un difetto che avevamo rimediato. Infatti il meccanico si è scusato e adesso glielo porto il filtro perché io l'ho comprato nuovo e nuovo deve avere questo difettoso, se lo fa cambiare me lo dà nuovo. Io il grido. Poi ha trovato l'altro difetto, non si è morto, ma con un gocciolino, niente. Magari era difettosa la guarnizione, se non era sbagliato il filtro sarà stata difettosa la guarnizione come era piazzata, e perdeva da lì. A volte no, anche se la vita a morte magari non la vita bene, c'è qualche problema di affrettatura, boh. Chi lo sa, perché l'ha avvizzato con quella chiave, capito, che c'hanno loro, quella catena. Sì, infatti. Oh, che il filtro vuole stretto a mano, mi non vuole stretto neanche con la catena, però è inutile. Vuol dire che vi raga che infiltrazioni e piglia d'anchivi. Beh, non mi era mai successo, il Ducato Max è successo. Sono cose che possono succedere, però quella mezz'ora ce l'avevamo sterzata così bella, andata lì. Dopo ha comprato l'Iveco, ma non era la matte sicura, sì, sembrava una vettura guidandola perché era leggero, di volante, però l'ha sterzata nemmeno a paragone. Così l'hanno Ducato e non va via sterzata, così. E allora, invece il Delicat era una bomba, come stressava, quasi su se stesso stressava, era una cosa bellissima. Invece col Ducato riuscire a fare manovre, anche se il volante era leggero, perché va servo stesso quello che vuoi, però devi fare più manovre e si entrava in una maniera, dove chissà maniera come ti entravi, se no come tu giravi la coda toccava magari la macchina che c'era parcheggiata. E perché c'aveva la sterzata corta, il Deli invece c'ha più sterzata. Ma non li vasere più, sì, non li dire. Quello era bello davvero, a me mi piaceva un bel quel dire. Io il grido. Più va, più. Adesso vogliono addirittura abolirle tutte le macchine a benzina e a gasolio, cazzo. Nel 2035. Già sarò morto allora e quindi non vedrò lo scempio. Allora, a gasolio dal 2021 al 2022 dovevano abolirle. Non so se poi hanno deciso, non hanno deciso, ma dovevano togliere tutte le macchine a gasolio, cosa che mi sembra impossibile, perché anche i mezzi grossi, tipo autotreni e cose, vanno tutti a gasolio. Quindi se togli il gasolio alle macchine, devi togliere anche a quelli. Allora li dovranno fare elettrici anche qui. E l'articolato elettrico, vai. Ti ridimo. Ma a parte che la forza non è la stessa di un motore a gasolio, e poi i chilometri che fanno quelle macchine lì non possono farle elettriche sicuramente. E infatti, non penso proprio. Almeno che inventino come la dinamo, che la macchina quando cammina ricarica la batteria e non c'è bisogno di fare la ricarica esterna, che si ricarica da sola così. E così sarebbe una cosa di lusso, in modo che non sai a fermarti, a fare. Io cazzo, che mi abbiugava della mezzo cammino di questi macchini elettrici che sono una stronzata secondo me. Noi ce l'avevamo, adesso ce l'avevamo il furgone della Nissan ce l'avevamo, avevamo preso a seconda mano elettrico e lo chiamavamo Silenzioso. Mi Silenzioso sta arrivando. Cazzo, arrivi all'imma così ti il gioco, se tu stai attraversando, no? Senti Marco che sta passando la macchina di gas e gate. E io uso, cazzo lì su non ne va dei rumori, a chi non ha il motore a scoppio vanno le batterie, boh. Marcolino Condo, ACC? Dove sarà nel mondo dei sogni? Dove è Dusirusa? Marcolino! Adesso sta ridendo sotto i baffi. Ah, sta dormendo sicuramente, sta riposando. C'è caldo oggi, mamma mia. Io oggi non ho mangiato manco a pranzo, solo sono mangiato a pranzo. Gelato, cazzo del gelato ti fa male, dice, vabbè non me l'ha fottuta, c'è un caso da morire, mi ho mangiato il gelato e poi ho bevuto tè di quello alla pesca, non ho mangiato altro. E quando è caso così non te ne viene gana di mangiare, anche io un'insalata, ma ho mangiato una fettina e no, l'ha fatta l'insalata, ce la mangeremo stasera perché non abbiamo toccato. Se l'ha fatto fare l'insalata, non è fumo, non è voglia, dai. L'abbiamo mangiato così. Ci abbiamo fatto affogato col caffè, gelato di quello fior di latte con il caffè. Poi il tè abbiamo bevuto. Una fetta di anguria. Una fetta di anguria, tutta roba fresca. E infatti, anda proprio bene. E io c'ero l'anguria e non ne ho mangiato, te lo immagino. Allora che per me stanotte già ricordo una giusta. Cos'era quel rumore? Quale rumore? Forse non ho schiacciato bene il PCT perché questo c'ha le lamelle, ma la sorte. Sto usando il tarlo. Eia, e se no chi ci vede fa di sul rumore. E io ne ho dovuto regolare le super sedici che non usciva, non toccavano bene e le ho dovute regolare. E anche io qua, ma evidentemente vogliono più, bisogna guardare, gliele pulisco e gliele regolo di nuovo. E io gliel'ho pulito lo stesso, gli ho messo un po' di aria spray, poi gli ho messo lo spray per contatti. E l'ho addrizzata appena, di modo che tu come prima toccano tutte perfettamente. E infatti chi c'è invece un microfono, me la viene regalato un amico, è quello grigio, e cazzo l'MBC4 c'ha qualcosa, non amplificheggia, o è il potenziometro del volume che è andato a farsi fottere. L'ha fatto di nuovo quel rumore, però quello non è segnale tu, non è il tuo segnale. Allora non so chi io. No, tu arrivi più forte. E evidentemente è qualcuno che gli fa difetto. Comunque tu arrivi bene adesso, quando conosce con l'antenna si diluce. Lo so. E sento anche bene. Cazzo, prima 7 di QRM fisso, adesso sento anche la propagazione. Dopo non c'è stazionale con l'antenna, io ne avevo parlato con l'Austria. Già lo so, a me la propagazione mi ha coperto uno di Udine ieri sera. Anche quelli di Sassari te li copre a volte, c'è gente che arriva più forte di quelli che ci sono a Sassari, 9.30, 9.35, segnali allucinati, i tedeschi l'altra volta, la settimana scorsa arrivavano con i segnaloni. E come dipende da come è messa la propagazione, capito? Perché l'onda si alza e quindi quelli di vicino non li senti, senti più bene quelli di lontano. Che cosa la fa? E sai cosa c'è nata lì? Che prima si sente il rumore e poi tu stai parlando a metà. È quello che forse qualcuno che cerca di entrare ti copre, Aspetta un attimo, vediamo un po'. C'è qualcuno che vuole entrare sul 10? E tu non l'ha fatto. Perché a me mi dice che sto uscendo, vedo i picchi di modulazione qua. No, ma il segnale è diverso, ti ho detto, se tu mi arrivi 9.20, questo qui mi arriva a Santiago a 7, capito? Ah, così è, E allora non sono neanche io, perché mi sta segnando che sto uscendo. E vabbè, io sto pensando un'altra cosa, vabbè. Che c'è qualcuno che sta mettendo la portante. Che cerca almeno. Ma la metta che cosa me ne ha fatto? Io spengo e lui si gioca con la macchinetta della Pipini. Ci metto molto a spegnere io. Ma spegni lui perché tu arrivi più forte, deve spegnere lui. E faccia come vuole. Tanto si incavola lui, non mi incavolo più io, no? Mi fa male a me incavolarmi, capito? E anche a me no. Ma c'è la glicemia, se mi cazzo. E infatti, meglio che salga lui che a me. Claudio, e come non avremmo lato del tutto, buh. Allora, che lui va. Adesso non si capisce se era qualche interferenza nell'aria, ma non penso. E può anche darsi, mi. Cazzo, ieri mi hanno coperto quello di Udine. Ogni tanto me lo facevano abbassare, capito, praticamente. Mi facevano QSB e a quello di Udine non lo sentivo io. Quando invece non c'era nessun disturbo si sentiva benissimo. Ah, succede questo, che praticamente l'ha fatto anche adesso. C'è questo rumore che tipo sei Santiago 7, tu sei 9:20, dai. E dopo che c'è questo rumore, subito dopo ti senti tu parlando. Figura di tu. Adesso l'hai sentito? No, negativo. Boh. Attenzione, Marcolino Condo, ci sei? Marcolino sarà addormentato, da. Ho una gara di entrare. Già lo sai, di lì occupato anche. Che non lo sai. E infatti, anche quello c'è. Quindi sai che cosa ho fatto? Io via. Già ne so qualcosa io. Tu addirittura due, poi. Ti voglio vedere infatti. Alla fine già mi è giunto un infarto, buro. Perché ti facevi tutto solo, capito? Non ti dava la mano nessuno. Infatti, non ti dà zia una mano che fa tu zia, nessuno. Boh, la tua roba fa. Che vuoi che ti dica? Ma tu non lo senti? No, io sento il QRM solo. No, non vuole che fa. No, negativo già. No. Allora, lo sento solo io. E che vuoi che ti dica? Sarà disturbo di propagazione magari. Ha fatto anche a me. Ecco, avanti. Buonasera. Buonasera, è all'ombra. No, già siamo all'ombra adesso, ma prima eravamo al sole, là. Gianni e Natalino, là. Ciao Natalino. Ciao Massimiliano, ben entrato, buonasera. Gappa gappa, va bene, di passaggio qua. Oh, Duga! Duga? No, Luga Gallop City. Sono rimasta. Ma parla, Massimiliano. Mi dite, dammi un po' di là, ma non per me. Massimiliano. Eia. Ho detto, parla. No, negativo, cosa c'è già? Ma non mi senti? Natalia, mi senti tu? Eia, voglia che ti sento. Ho risposto a Gianni, bu. Perché c'ho questo rumore, quando parlo fa Ehi Gianni, ma è un problema tuo, perché qua Natalino non c'è nessun disturbo. Ciao Massimi, buonasera. Ciao, ciao, ciao, buonasera anche a te, va. Boh, neanche io non sento niente. E infatti manco io sento nulla. No, non è preparazione, è qualche interferenza che c'ha Gianni sicuramente. Datemi 10 minuti che sto facendo una cosa, già riprendo subito. Ok. Allora, vieni a casa, Massimiliano. Sei abbastanza, da. A Oscari lì ce n'erano 44. Allora, ma se avete l'aletto di sionata, detto? Certo, se no non fa lavorare, no. Come fai a stare in un metro quadro con tutti i vetri così, è un casino. Adesso, anche con l'aletto di sionata... mi dica che è malato. Però senza non puoi lavorare già, se no te ne devi stare in casa. Poi il finestrino aperto, al posto di tenerlo chiuso, tieni leggermente il finestrino aperto in modo che entra anche un po' di aria da fuori e ogni tanto te ne scendi, devi stare sempre bugiardo. E la polvere non entra. Quando stai caricato te lo chiudi il finestrino, no? Quando non ci sono i camion, leggermente te lo apri. Certo che entra la polvere. È un mestiere che il caldo lo prendi, per forza lo prendi. Il problema sai cos'è già? Che se tu accendi l'aria condizionata io la punto nei vetri, capito? Nel senso, se i vetri riescono a tenere la temperatura fresca, caldo non ce n'è. Il problema è che l'aria condizionata non ce la fa. Cava. Allora, sacrifici sono, si vede. Travaglio, cosa devi fare? Avanti, Natalia. Infatti. Il travaglio non è mai piacevole, è piacevole solo quando ritiri i soldi e buh. Ma vuoi che manco Ghisso? A che sei sottobagliato? Ghisso è feo, vedi, quello è roba losca. C'è gente che prende il reddito di cittadinanza, senza fare un cazzo, lo mandano alla gira, un peso. Tanto gli ha pagato da lui, puzzi non si rimedia. Purtroppo sì, ci sono anche qui furbetti. Ci sono. Che io non ne avrei data a nessuno. Di reddito cittadinanza perché è sbagliato. Diano il sussidio alla gente che proprio ne ha bisogno. Gli altri vadano a lavorare, non rompano i coglioni. Bravo, anche io, guarda, la penso così. Cioè, non è che non lo devono dare a nessuno, lo devono dare proprio alla gente che ne ha bisogno. Però siccome è vaso, abituati, un biglietto non fa un cazzo a mangiare la gira, capito? Poi oltretutto ci prendono quello, ci fanno anche qualche lavoretto a casa e quant'altro, là. Capito? Quindi, e guadagnano più di te che tu stai in giro dalle 5 al mattino, capito? Cuzzinosi. Già è così, e poi si fanno anche i lavori in nero, amico. Capito? Quindi guadagnano sì più di te, chiaro grido. Vabbè, io ti ripeto, sono d'accordo a darlo proprio alla gente che ne ha bisogno. Però il 10% ne ha bisogno, il 90% è mandrova, capito? La giustizia la fa lì, nelle persone vanno a fare la spesa, va da lì, sta vegliando 20 lattine di birra, capito? Solo birra. E allora? Per infilcarsi per i guglioni, maledetti. Se lo so tende pure agli extracomunitari, su grazie del cittadino, ma cosa cazzo lo dai agli stranieri? Lo devi dare agli italiani, non agli stranieri. Gli stranieri andano a fanculo, secondo me. Non è fatto né stranieri né cose, Natalì. Devi travagliare come lavoriamo noi, capito? Tutto qua. Lo sai cos'è già, che quello che hai visto tu comprando la birra, prima si è bevuto la birra e la poi si mangia la lattina. Sono degli istituti, ci capito. Ma mia, io qua non rimborso la vita, cioè, sono quel travagliente per pagare un reddito cittadino per il cagliente stato in casa grattarsi la panza. Ho intervistato di quelli di colore, ci ha detto perché tu sei venuto in Italia, lui ha detto perché in Italia ci danno i soldi senza fare niente e poi ci violentiamo anche gli italiani. Te lo immagino, cambiamo discorso qua perché mi sta già sentendo nervoso. Si prendeva anche più i fondelli. Invece si avrebbero fatto un po' di controlli alla gente. Hai visto quando le controllano, a volte le controllano un po' e stanno prendendo il reddito di cittadinanza e non gliene spetta neanche, capito? Ma se si accorgono che non li spetta, se li fanno ritornare i soldi. Come glieli torni. Che devi farci? Grava. E purtroppo la legge non la facciamo noi, non ci abbiamo voce capitolo. Se il popolo potesse intervenire in certe cose, invece decidono loro per noi. Cosa ci vuoi fare? Quindi adesso mi sa che dal 27 fanno un altro po' di sciopero i camionisti per il caro gasolio, è un casino anche quello. E tutto insieme, quando va a fare la spesa non si vedeva. Subito per ritirare di là a fare il pisa, prima mi bastava quello che avevo, adesso sempre ritirando. Adesso stai ritirando perché è un casino, perché è aumentato tutto, capito? L'unica cosa che non hanno aumentato sono gli stipendi. Natali. Io un attimo sto cercando dei pezzi qua. Capisci ragazzi, no, sono di un di Marasù, si gira giù buchi. Cosa è smontato la testa? Una di quelle penne che ha la luce ultravioletti, mia, ultravioletti. È così tecnologico. Non te la metti da Russia, Natalino. Cazzo, è con la faccia tra due. Un gribo. Perché la famiglia non canta una volta, non dà molto fastidio. Questo, quando ti sento parlando, è stato sempre di Casini. No, è vero, invece, diciamo, i lui, quelli lì si fanno casino, sono molto esagitati, stanno sempre giocando, facendo, si butta la pazza all'aria, le vede tutti i rigori, parlano. E adesso più avanti le troverò il maschietto, questo è femminuccio, la roba a cucciare in compagnia. C'è proprio un rumore, insomma, si vede anche sul 2, me lo fa, sul 3. Non so cosa cacchio sia. Che rumore senti già? Sta rompendo le scatole, buh. Sarà qualche cosa che hanno attaccato, buh. Ma dico, che rumore è? Ma è una portante, cos'è? Un rumore esterno, cos'è? Stappa lì. Ma non mi senti già? No. Ma è vero, sì. Ehi, c'è questo rumore, come quello che siamo in tu, ce la presente, fa buh. E allora hanno acceso qualcosa. Che adesso l'ha fatto? No, io non ne ho, adesso. Cioè, perlomeno, adesso da me è sparito... Boh, sarà un mesetto che non ce l'ho più questo rumore. Boh, era qualcosa magari che attaccano l'inferno, cosa ne so pure, boh. Da quando è che non ce l'hai più? È un mesetto. Sarà andato a abitare vicino a casa di Gianni. Davvero, me? Ma cos'è ci facciate? Qualcosa del genere? A me tipo si sollevava tipo il QRM per la Santiago 7-8, ma non mi sente proprio. Aspetta che provo a attaccare l'altro apparecchio, vediamo un po' se riprende da questo, non so che cosa è. Prova, cambia, ma perché io ho QRM a 1, quasi nulla, tu un apparì. Il fatto è che l'ho fatto e non molla, capito? No, io ce l'avevo fisso, quando c'è... Allora, come Santiago di 7, fa rumore e poi molla. Fisso senza che non staccava mai, arrivava a Santiago 7, 8, 9, però fisso, e mentre parlavano gli altri schiacciavano la portante, se lo portavano appresso, quindi davano a fare un bel fastidio. Tu ma ce l'hai Natale questo rumore? Io non ce l'ho. No, non ne sento io. Sì, c'è qualcosa di propagazione a Santiago 3, ma propagazione però. Adesso non so se devo manco io. Ma questo segnale, questo che ha fischiato. No, allora è roba che c'hai tu, no già. Cosa? È roba che tu, io non sento nessun fischio, né nulla. No, io il fischio l'ho sentito. Ma quando arriva questo segnale già? Santiago 7. Ma io ti ripeto, quando ce l'avevo questo segnale era 7, 8, 9, ma era sempre fisso, non mollava mai. Oh, questo qui molla, come molla ti senti tu parlare un attalino, l'ho fitto. Come se vi colpisse, tu come molla si sente che parlate voi. Allora è una roba di propagazione, buh. Che ne so, ma tu arrivi più forte il segnale 7, come è possibile che ti tappi, buh, è quello che mi chiedo. Ma è cambiato il radio adesso? Ha cambiato il radio già. Forse non ci sente quando c'è quel rumore, Natali, buh. Gianni, è cambiato il radio? Adesso cambia il radio. Prova a cambiare il radio, può darsi che magari qualche altra radio sia più selettiva, non lo senti, buh. Non ce ne manca a me, mi l'arrivo 9:20. Ma cazzo, Natali, male dopo il trano, se tu arrivi 9:20 e questo segnale da lui è Santiago 7, non ti può coprire, scusa, Eppure mi copre a te e copre pure a me. Allora vada che rientro di RF invece. Boh, che ne so. Che abbia qualcosa di acceso lui, magari lì non se ne accorto. Può darsi. Cazzo, mi copri per fatti, mi dice, ma Natali, cazzo, io non intendo nulla. Ah boh, non lo saci. Ma Claudio, i parito è? Claudio penso stia facendo un cuticci con la figlia, stava dicendo. Ah ecco. Vabbè. Prova già. Adesso mi sento bene, dai, vediamo un po' se lo fa anche qua. E vediamo un po'. Ma sicuramente già è qualcosa che c'hai tu, perché se questo segnale ti arriva a 7 e noi arriviamo più forte, come fa a coprirci, scusa? È una domanda che mi ho fatto io, eppure vi copre. Voi quando parlate arrivate più forte del segnale, però vi copre lo stesso. Quando c'è quel rumore non vi sento più. Ma non c'avevi qualche radio accesa lì, niente, no? Qualche rientro, no? No, niente, tutto spento. Adesso c'ho il Cobra, dai, acceso. Ho acceso il Cobra e non sento nulla adesso. Ok, via si sente, perché 9:30 si qua. Cava, va bene, comunque... Niente, dai. adesso sta andando bene, non sento più questo rumore. A meno che sia partito qualche componente anche con l'apparecchio e mi sta rompendo le basi. Già, può essere. Cos'era quello? 2009? No, il Luis. Perché se qua non c'è nessun disturbo, allora era la radio, capito? Vai da lì. Infatti, cazzo, gli arrivavo 9:20 a Gianni, eppure mi copriva. Ma poi la riattacco, voglio vedere se la radio. La riattacco dopo, magari lascio passare un po' di tempo, poi la riattacco e voglio vedere se mi fa lo stesso difetto. No, e se questa già non ti sta facendo nessun difetto, devi provarla subito. E vabbè, adesso la metto accanto questa qua, vado in bagno un secondo e poi riprendo. Come ho io il rumore, fate bene tutti, non c'è nessun disturbo, niente, sicuramente la radio che percepisce qualche disturbo rispetto magari a un'altra. Cos'era quello, il Royce? E il Royce si stava usando, dopo ha attaccato il cobra e non sentiva niente neanche lui, sarà la radio sicuramente. Sicuramente il Royce, che magari c'ha un noise blanker un po' più leggero rispetto agli altri, percepisce qualche altro rumore. Però io ti ascolto benissimo, 9:10, radio 5, perfetto, senza nessun disturbo. Un attimino, ho tolto, ma l'alimentatore, ci avevo il Diamond da 50 ampere dentro l'armadio, avevo lubrificato la pentolina, adesso lo metto in funzione con l'alimentatore perché era un bel tempo fermo. E mi alimento diretto, mi alimento 920, le 29:20, così lo stacco dal proxer. Già sono qua comunque. Non ti preoccupare, va. Tanti lo fra poco me ne vado, però che non un cacco a mulino qui sopra. No, qua c'è un fresco bellissimo, la verità. Qui c'è un caldo allucinante, però qua si sta molto bene. Vabbè, tu sei sotto il tetto. È normale. Va bene, dai, datemi 10 minuti, già siamo qua comunque. Vai, non ti preoccupi. Anche io un secondino mi nata lì che mi pongo le pantaloncini. E se no è un macello, che va? Cazzo, tu pure stai copiando pure i pantaloncini di credo di essere da solo a mettermi i pantaloncini. Ma è nata lì, dai, salutami a Gianni quando entra, a Claudio. Me ne scendo un po' giù là, se riesco a prendere un po' di freno, vedo che è troppo gatto, magari ci sentiamo dopo, ok? Ok, ciao Massimiliano e Prussi. Ciao Massimiliano. Ciao, a dopo, troppo caldo c'è qua, là. Magari ci sentiamo dopo. E anche qua c'è caldo, ci sono le finestre aperte, ma c'è caldo. Claudio, 10 minuti ha detto che sta collegando un altro alimentatore. Adesso voglio provare di nuovo ad attaccare il russo a vedere cosa combina. Prova a vedere. Natalius. Oia, sono qua. Sta andando bene, là. E che vuoi che ti dica? Magari questo è più sensibile e vuoi capitare più rumori, boh. Può anche darsi, Adesso sta andando perfettamente. Come scalda adesso, la lasciamo scaldare un po'. Infatti magari c'è qualche cosa in perdita e ti fa quel difetto lì. Adesso bisogna vedere. Speriamo di no, speriamo che non cambi nulla. Perché questo mi piace pure l'apparecchio, non se lo voglio buttare come l'altro. Ma dice che l'altro l'hanno aggiustato, così è. Sì, aggiustato. E vabbè, tanto non ho gli apparecchi da tali, c'ho Luis che è grande, c'ho l'Inter che è stazione base, c'ho il Cobra, c'ho le cose, il Magnum, c'ho questo qua, il 2009, a voi degli apparecchi. Ma buttateci tutto! Mi venuto è Maccolino Condo. Ciao Maccolino. Buonasera, sto tornando adesso, ero in moto a fare commissioni, non mia ovviamente. Oggi non ne potevo più, sono uscito proprio in sandali, pantaloncini corti e maglietta da Billoi. E cappellino da Billoi non ce l'avevi? No, c'avevo il casco da Billoi. Cazzo, bisogna andare a buscare due di quelli da Billoi Montagnino, di quelli piccolini. Cosa stavate provando? E lui, perché sentivo un rumore sottofondo e Marco non riuscivo a capire che cosa era, perché la pallina arrivava a 9:20 per dire, e questo segnale era a 7, si faceva Beh, non sai che colpiva Natalino, colpiva Massimiliano, non capivo cos'era, adesso lo spettro l'ho riacceso e non lo sta più facendo. Probabilmente era qualche rumore sottofondo e questo apparecchio qua percepisce, è più sensibile degli altri e si sente, capito? Non è che avevi battimento da qualche altro canale, no? Ho provato, non c'era nessuno, No, sul 20 sento provare, non so, sento suoni strani, come alternata che cambia la frequenza, tipo una cosa tutta strana. Esatto, era così. Così faceva e colpiva, poi come mollava, si sentiva la voce di Natalino o di Massimiliano, capito? No, allora è battimento dal 20, c'è qualcuno o qualcosa che sta provando, ha un segnale forte, medio, e con rumori strani, io voci ancora non ho sentito solo queste alternate strane, non so come definirle nemmeno. Ma io non lo so se era dal 20 dove era, però sentivo questa, probabilmente questo apparecchio riceve più splatter, che sono di clicchia, però dammi una spiegazione tu se lo sai. Allora arrivava a Santiago 7 questo segnale, beh, e compriva Natalino, ma si vedono che arrivano molti più forti, com'è possibile? No, diciamo che quello è battimento, cioè se c'è un segnale molto forte su un altro canale che non è molto distante, magari da 10 al 20 sarà quello, ti tira giù i segnali, proprio te li abbassa e senti il rumore emesso da questo segnale, o la voce o quello che è, insomma. A me lo faceva col multimode Fremmi, mi buttava giù i segnali, me li tirava giù e sentivi quello che c'era sugli altri canali, capito? Però il multimode 3 prendeva tanti di quei colpi che erano follia. Non appare che non c'è nulla, perché se stanno già da un po' e non ha più fatto quel rumore. Non so che dire, già io sto arrivando adesso, mi devo ancora disfare le buste. Natalino, riprendi. Cosa hai comprato? 6 kg di gelato? No, carta, roba così, batterie, mi serviva una batteria da 9 per l'MB più 5. Con questo caldo sei uscito, Marco, io non ti invidio. Sai cos'è già, io avrei fatto a meno anche di uscire, però mi sono messo più leggero possibile, perché dovevo ritirare le medicine di mamma e quelle erano improrogabili. Vabbè, quello lì, sì, senza ombra di dubbio. No, anche io stamattina sono uscito, ma in macchina. Ho messo l'aria condizionata e sono andato a fare la spesa e lì c'è l'aria condizionata anche dentro, quindi se non sono stato male. Poi sono andato in farmacia, anche io poi me ne sono tornato a casa perché il caldo è troppo, Oggi non ho mangiato nulla, me ne sai cosa? Ho solo mangiato gelato e bevuto del tè alla pesca, tutta roba così. Pensa che io ho fatto colazione stamattina e poi sono digiunomi. Dalla colazione stamattina ho bevuto un po' di tè e due biscottini e non ho mangiato altro fino adesso, devo ancora pranzare, perché quando c'è troppo caldo mi sconvolge tutto, non mi viene fame nemmeno, capito? Adesso mi conto le bottiglie dell'acqua che ho in casa, perché io domani e dopodomani mi sto barricato a casa. Se le bottiglie sono poche vado a pigliare l'acqua e poi me ne torno. E io le prendo 4-5 casse alla volta. Lo so, in macchina, ma io era per non muovere la macchina, che se no rotola i balle. Quello è. E dove la prendi? Giù da te, dove c'è quello che apre di notte. No, sta scherzando, a pagare 5 euro una cassa di acqua, ma per carità, io vado da Lidl, da Spin, da MD, tanto vado per prendere altro, e la pago 14-15 centesimi a bottiglia, quindi una confezione da 7 viene una cifra irrisoria, se vado qua mi spenna, è peggio della Kobeck. Ascolta, cosa te la porti a piedi da Lidl e da Spin? In moto già, in scooter, me lo metto nella pedana. Ah, io pensavo a piedi, cattara, se no ti gustava. No, no, poi se devo fare la spesa grossa vado in macchina. Certe volte mi metto la moto al posto della macchina. Poi se mi va bene che trovo spazio, tolgo la moto e rimetto la macchina. E se no devo parcheggiare più lontano. Vabbè, se hai ripristinato la moto, è apposta lei. Come già, l'ultima parola? Ho detto, è apposta la moto adesso. No, i rulli non li ho mai fatti, i rulli, quella la frizione automatica non l'ho mai fatta, e quindi è un ciodu. Poi il freno sinistro è un po' moddighe, ma ancora frena, ancora inchioda.